I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Che fossimo ripartiti, ma con il fiato ancora corto, lo sapevamo, ma ieri il Fondo Monetario Internazionale l'ha messo nero su bianco nelle sue previsioni annuali. L'Italia, dicono gli economisti di Washington, non aggancia la ripresa che si sta rafforzando nel resto dell'economia mondiale e in particolare negli altri paesi avanzati, e la sua crescita resta al di sotto dei maggiori paesi industrializzati. C'è di più. Il mondo rischia di veder bloccata la sua crescita perché si affacciano nuove tentazioni protezionistiche a partire da quelle dell'America di Donald Trump. Insomma, per il Fondo Monetario Internazionale l'Italia crescerà dello 0,8 quest'anno e non dell'1,1% come invece ha indicato nel documento di economia e finanza fresco ancora di inchiostro. È comunque una disputa sempre sui decimali e sugli 0, l'Italia rimane molto al di sotto della sua crescita potenziale, come anche la Spagna, la Grecia, il Portogallo e la Francia. E questo è il club che ci fa compagnia in questa Europa flagellata dalle polemiche preelettorali e dai travagli per la Brexit. Se l'Italia e gli altri paesi che vanno troppo lenti vorranno migliorare la loro performance, dovranno innanzitutto migliorare lo stato dei bilanci delle banche, ancora troppo zavorrate dai crediti in sofferenza e quindi non orientati a finanziare lo sviluppo e la crescita. È questa la raccomandazione che fa il Fondo Monetario, ma del resto questo è un problema in via di soluzione in Italia. Ma, come appunto per la crescita, tutto avviene ancora con un passo troppo lento e il mondo purtroppo non aspetta. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Accade di rado, ma quanto accade, un po' di riflettori andrebbero accesi. La notizia di una possibile acquisizione del gruppo spagnolo Abertis da parte di Atlantia, la holding infrastrutturale della famiglia Benetton, è passata quasi sotto silenzio in Italia, come se operazioni di questo tipo, che hanno davvero un valore globale, fossero così all'ordine del giorno. In realtà, purtroppo, ci siamo più abituati a vendere che a comprare, e forse anche per questo gli unici ad essersi accorti veramente di quanto sta accadendo sembrano essere i mercati finanziari. Ieri, dopo la notizia dei primi contatti fra gli italiani e gli spagnoli, la Consob spagnola aveva sospeso le contrattazioni sui titoli di Abertis, oggi riprese con una sorpresa. Mentre il titolo della società spagnola è caduto, quello della società italiana è salito. Che cosa vuol dire tutto ciò? Normalmente quando il titolo della società che è candidata a comprare sale è perché o il mercato non crede che l'operazione avvenga o altrimenti ha capito che potrebbe essere soltanto il primo colpo di cannone di quello che è un'espansione possibile e prevedibile dell'azienda italiana. In gioco ci sono grandi concessioni autostradali, lavori, tutte opere infrastrutturali che in questo momento rappresentano che cosa? Il motore dello sviluppo e della ripresa in Europa, visto che su altri fronti, quelli dei consumi, c'è ben poco da dire. Insomma, un pochino di attenzione in più a certe operazioni, soprattutto viste le altre operazioni che sono avvenute fino adesso, cioè vendite da parte di aziende italiane ed aziende straniere. Se la borsa ha detto la sua, sarebbe ben interessante sapere che cosa pensa il paese, visto che si tratta di una delle ultime grandi aziende infrastrutturali italiane, un player globale che nel corso degli anni ha dovuto, suo malgrado, ridurre la dipendenza dal mercato interno, visto la crisi che continua ad attanagliare la nostra economia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.